Ciao a tutti gli amici di Big World e stasera parleremo di un argomento che riguarda sempre il mescolare. E l'argomento è: quando sacro e profano si mescolano, nasce una bella storia che dura nel tempo. Noi tutti sappiamo che il nostro benessere generale dipende dall'alimentazione, dalla capacità intellettiva e dal benessere psichico. Oggi la nostra storia è collegata al benessere psichico. Si racconta che in Val Tiberina, lungo un torrente dove le lavandaie si trovavano a battere il bucato e a scambiarsi i loro pareri saggi su tutto e su tutti, ci fosse una pozza sovrastata da un grande masso e vicino una chiesetta che il tempo ha divorato. Nelle notti di luna piena, appena la luna nasceva dietro le colline, al tempo delle lavandaie, si dice che le donne che non riuscivano a concepire o che avevano poco latte per il proprio nato, si recassero al torrente, al grande masso, per bere un bicchiere di acqua cristallina e chiedere quello che loro mancava, che era il latte per la prole e la fecondità necessaria per avere braccia in quella comunità rurale. Non era importante se il figlio del fattore aveva i lineamenti dello stalliere, neppure se la figlia era il ritratto del prete del paese, neppure se il notabile, colto, alto e slanciato, si trovava a tirar su un bimbetto di piccola statura e tondo come il porcaro del paese. Era importante che nascessero bimbi e bimbe per continuare in modo gradevole e sicuro le attività che da sempre si esercitavano in quel paese. Qualche sera, al sorgere della luna piena, anche più donne si ritrovavano al grande masso sul torrente, ma erano tutte così intelligenti e donne e non si impicciavano delle altre comari al grande masso e tra gli ontani che costeggiavano i torrenti. E avveniva che i bimbi nascevano e le madri avevano tanto latte per nutrirli. Passavano gli anni e i secoli e niente cambiava. Fin quando arrivò nel paese un grande pittore e dipinse nella chiesetta in riva al torrente una Madonna bellissima con la grande pancia delle gravide. Allora le cose cambiarono. Le donne non andarono più al grande masso del torrente delle lavandaie nelle notti di luna piena, ma si recarono nella chiesetta lasciando il loro obolo alla Madonna, rivolgendosi alla Vergine per avere latte e figli. E avveniva che le donne prolificavano e avevano latte per i loro figli, senza più andare a bere acqua cristallina nelle notti di luna piena al grande masso al torrente delle lavandaie. Oggi il torrente delle lavandaie ha cambiato percorso, scorre in un luogo diverso da quello di tanti anni fa. E la Madonna gravida, dallo sguardo fiero, che sa quanto è importante quel pancione che temporaneamente deforma il suo corpo, è ospitata nel museo del paese. E anche oggi giovani donne vanno alla Madonna del parto a parlarle dei loro problemi di fecondità, come facevano quelle dei secoli passati bevendo acqua cristallina al torrente delle lavandaie con la luna piena. E anche oggi nascono bimbi voluti e sono ben allattati. È da pensare che la fertilità e il latte non dipendono e non dipendessero dalla Madonna o dall'acqua cristallina, ma dalla convinzione innata in noi che se chiedi ti sarà dato, perché la nostra psiche, come dicevamo all'inizio del nostro stare insieme, mescolata con l'alimentazione e con l'intelligenza, ci aiuta a vivere una vita che oggi diciamo vita di qualità. Alla prossima, e vi saluto da Radio Big World.